Ben sintonizzati a tutti e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sugli 87.9, queste Tracce di Cinema. Sono le 15.02 di giovedì 19 marzo. 19, non fa una piega. E, quasi primavera. Oggi vorrei dedicare questa puntata a un'amica e anche ispiratrice del film di oggi. Come Francesca. Ispiratrice del sì, film? Sì, beh, sì, è stata prima di te, è stata lei a suggerirlo. Non ha ispirato Wes Anderson. No, non l'ha ispirata. Forse se Wes Anderson la conoscesse potrebbe ispirargli un film, perché lei è molto simpatica e particolare. Francesca, questa puntata è dedicata a te, un bacio. Il film in questione è appunto un film di Wes Anderson, I Tenenbaum, del 2001. Il terzo lungometraggio di questo regista statunitense. È la storia di una famiglia abbastanza eccentrica, che si rimette, diciamo, si riconcilia, si riunisce dopo che il padre Gene Hackman, Royal, il suo personaggio, ritorna a casa senza un soldo e con la scusa di avere un cancro, insomma, si fa ospitare nella casa di famiglia. A poco, uno dopo l'altro, i figli anche tornano in questa vecchia casa dove ad accoglierli è la madre di tutti loro, Ethelyn, Angelica Houston. I figli sono Richie, che è un promettente tennista, Chas, che è un genio della finanza, era anzi un genio della finanza, Margot, che era un'ispirata scrittrice. Tre geni, insomma, da bambini, che però poi dopo nella vita, crescendo, insomma, perdono le loro grandi qualità e si confrontano con problemi più o meno complessi. Chi è il regista? L'hai detto? Abbiamo detto Wes Anderson. Che ha fatto un bel po' di film con gli stessi attori. Sì, con gli stessi attori, e la sceneggiatura anche del film è scritta con Owen Wilson, che interpreta il personaggio di Eli Cash. Luke Wilson è il fratello di Owen Wilson e interpreta Richie Tenenbaum. E, insomma, sono un gruppo abbastanza affiatato, no? Eh sì, hanno fatto insieme Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Il treno per Darjeeling, e il regista ha fatto anche Grand Budapest Hotel. La vita, sapete? 30 anni fa fui accoltellato in un bazar a Calcutta. Lui mi portò in spalla fino all'ospedale. Che ti aveva accoltellato? Sempre lui. C'era una taglia sulla mia testa e lui era un killer a pagamento. Mm. questa era la rivisitazione del canon di Pachelbel in re maggiore da parte di Mark Mothersbaugh. E la colonna sonora di questo film, cioè i Tenenbaum, ha musiche rock più o meno dagli anni 60 agli anni 90, con Paul Simon, cioè Van Morrison, i Rolling Stones, John Lennon, Nico, i Velvet Underground. Oltre a questi brani, Wes Anderson ha usato questo Mark Mothersbaugh, musicista, autore, cantante e pittore e fondatore della band Devo. Ha collaborato frequentemente con Wes Anderson e anche per altri film, questo l'avevo già detto. Rushmore, ha fatto la colonna sonora di Rushmore e Le avventure acquatiche di Steve Zissou. Poi ha fatto anche la colonna sonora di 200 Cigarettes e io ho trovato anche che ha fatto la colonna sonora di Hotel Transylvania, il cartone. Sì. Ma anche dei videogiochi come Sims 2 e Tomb Raider. Questa era i Jude dei Beatles, rifatta dai Mutato Musica Orchestra, che è una società di produzione musicale fondata nell'89 dallo scioglimento della band Divo, e quindi è cofondatore sempre Mark Mothersbaugh, che ritorna appunto. Io volevo dire che Wes Anderson ha ricevuto molti riconoscimenti, 6 nomination agli Oscar, per i Tenenbaum come migliore sceneggiatura originale, come miglior film di animazione per Fantastic Mr. Fox, come migliore sceneggiatura originale per Moonrise Kingdom, e poi 3 nomination come miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura per Grand Budapest Hotel, per il quale ha vinto anche un David di Donatello quest'anno. Beh, insomma, non è stato, cioè, è stato fortunato, perché comunque ricevere 6 nomination agli Oscar, cioè, voglio dire, è una cosa importante, però non ha mai vinto. Mai vinto, no. Io so com'è il cancro allo stomaco, perché l'ho visto. E non riesci a mangiarti 3 cheeseburger al giorno con patatine fritte se ce l'hai. Il dolore è insopportabile. E tu come lo sai? L'ho avuto mia moglie. Non solo non esiste nessun dottor McClure all'ospedale Colby, non esiste neanche l'ospedale. È stato chiuso nel 74. Oh merda. Oh merda. Come hai avuto tutte queste medicine? Mi ha aiutato un tipo dell'ospedale St. Peter. L'avevo difeso in un caso di negligenza. Però la pressione alta ce l'ho. E ricca colonna sonora quest'oggi per il film I Tenenbaum. Questa era Police and Thieves dei Clash. È una canzone che nasce per i Clash come una cover di una versione reggae scritta da Junior Marvin nel 76, che è diventata un inno in Gran Bretagna nel 1976, quando il carnevale di Notting Hill sfociò in una rivolta e Joe Strummer alla voce dei Clash e Paul Simonon al basso dei Clash sempre erano coinvolti appunto nella sommossa, il che li ispirò a farne una cover per il loro album di debutto in uno stile che chiamarono punk reggae e non white reggae. Stai provando a rubarmi la donna? Il numero 3 è un'altra femmina. Chiara. Come, prego? Mi hai sentito, Mandingo? È la prima volta che la possiamo sentire. Mandingo? Cosa? Tu mi hai chiamato Mandingo? No. Ah, no? No. Potrebbe essere la rivelazione del mondo. Il numero 4. Va bene. Ma se l'avessi fatto, tu non saresti in grado di fare un bel niente. Ah, non credi? No, non credo. Ascoltami, Royal, io non ti capisco. Vuoi che parliamo jive? Io parlo jive. Parlo jive come? Meglio di tu? Ah, sì? Proprio così? Siediti! Cosa? Che cosa hai detto? Ho detto siediti! Ma non ho sentito bene, vattene fuori dalla mia casa! Questa non è Parte casa tua! Parte il tuo fuori di qui! E non sarà puntualizzare! No, questa non è la tua! Cosa sta succedendo qui? Niente! I Ramones nella colonna sonora dei Tenenbaum, uno dei brani che prediligo dei Ramones, e questo ci dà l'opportunità di metterci in collegamento con il nostro Federico Pedroni per parlare del film di Wes Anderson e più in particolare della colonna sonora. Federico, ci sei? Ci sono, buonasera. Oh, che piacere. Come va? Bene, bene, grazie. Voi, scusate il rumore, ma il traffico romano. Allora, noi abbiamo già fatto ascoltare alcune tracce, tra cui la versione Hey Jude proprio del film, l'apertura, la prima scena, esatto, la lunghissima tappeto sonoro della prima scena del film. Allora, diciamo qualche parola, partiamo da, io direi dal regista, che secondo me con questo suo ultimo film invece, che è stato in sala fino a poco tempo fa, ha raggiunto l'apice del suo talento, secondo me. Sei un amante di Grand Budapest, anch'io, però io sono un amante di Wes Anderson, quindi avrei fatica a scegliere forse un film preferito. Forse in realtà sceglierei proprio Tenenbaum, proprio perché non lo so, questo suo gusto vintage, questo suo gusto per il gioco, questo suo gusto per i personaggi strani, questo suo gusto per il racconto incrociato, quest'uso della musica, quest'uso delle scenografie, raggiunge una specie di equilibrio magico. E questo ultimo film sicuramente è più maturo, nel senso che è un film che ragiona proprio sui modi di raccontare e sul racconto in sé, in maniera quasi classica nella sua stranezza. Nei Tenenbaum, ricordiamoci, era un terzo film i Tenenbaum, tra l'altro era un terzo film che veniva dopo Bottle Rocket, che era il suo primissimo film, che era quasi un saggio post-universitario fatto con un gruppo di amici, e Rushmore, che era il suo primo film, diciamo, da grande. Diciamo che i Tenenbaum è il film che lo ha fatto esplodere qui in Italia, e non ho premesso il fatto che sei stato tu a suggerircelo come scelta per Tracce di Cinema, e abbiamo aderito chiaramente con gioia. Ed eccoci, sì, qui. Sono quelle cose degli incontri che uno fa dicendo sto facendo questa cosa, dovreste fare quella. Ma perché i Tenenbaum è uno dei film, Wes Anderson è un regista che secondo me utilizza moltissimo la musica in maniera narrativa ed emotiva, quindi è un regista che riempie molto i suoi film di musica, ma li riempie sia come colonna sonora in maniera più tradizionale, sia utilizzando le canzoni in un appunto in maniera molto narrativa, ma soprattutto sulle emozioni. Ci sono tre o quattro canzoni usate nei Tenenbaum, secondo me, che riescono perfettamente a fare da contraltare sonoro a ciò che vedi sullo schermo. La scena forse che viene più in mente per chi ricorda il film è il tentato suicidio del personaggio interpretato da Luke Wilson, che si taglia le vene con una canzone di Elliott Smith sotto, tristissima. Poi diciamo che porta con sé, per chi lo conosce, tutta una tristezza di fondo evocativa. E un'altra scena che io amo follemente è l'incontro sempre tra lo stesso personaggio e quello di Gwyneth Paltrow, che sono fratellastra e sorellastra, ma da sempre innamorati l'uno dell'altra, sulle note di Disdetti Nico. Riesce con questi campi profondi, con questi vestitini che mette addosso ai personaggi, con questi rumori di fondo che si fondono insieme alle canzoni che partono, a creare una sospensione emotiva che secondo me lo rendono tra i più grandi utilizzatori di pop all'interno dei suoi film. Ecco, insomma, cioè, in questo poi ce ne stanno, questo forse è il film in cui questa cosa è utilizzata più spesso. Ci sta Paul Simon, ci sta Bob Dylan, ci sta Lennon, ci stanno i Rolling Stones, ci stanno i Ramones, quindi cose diversissime anche tra di loro, che riescono proprio a costruire un tappeto emotivo alla storia che racconta e alla stramberia dei personaggi in maniera assolutamente convincente. Io alla fine di quel film, anche grazie alle musiche, quei personaggi sembra riconoscerli e di volerli proprio bene. Io ricordo i Tenenbaum come una visione abbastanza folgorante, perché Rushmore non è mai arrivato in Italia, quindi Tenenbaum è stato il primo film a essere distribuito in Italia, e poi come al solito gli autori indipendenti vengono riconosciuti quando le loro sceneggiature vengono candidate all'Oscar. I Tenenbaum appunto ebbe questo vantaggio, e mi ricordo la proiezione fatta per noi addetti ai lavori nella saletta che allora esisteva poco fuori Roma della Sony e della Disney. Fecero questa proiezione di questo autore americano di cui nulla sapevo, e che dalla quale uscì, e non solo io, sinceramente abbastanza folgorato. Insomma, e uno dei pensieri è proprio l'utilizzo di un certo tipo di musica, che sicuramente io amo moltissimo, perché il film è zeppo di autori a cui sono particolarmente personalmente legato, però proprio utilizzato in una maniera non del tutto nostalgica, non del tutto furbetta, ma proprio di cuore, di pancia, emotiva, fortemente suggestiva. Ecco, trovo quindi che quando te mi avevi detto sto facendo questa trasmissione, il primo film che mi è venuto in mente degli ultimi anni è stato proprio Tenenbaum. Io lo associo, come anche senso estetico, Wes Anderson, a registi come o Russell o Sam Mendes, e come oggetto misterioso della cinematografia statunitense. Fede, come esce fuori Wes Anderson? Ma guarda, Wes Anderson sono quelli della generazione appunto della fine degli anni 60 e degli anni 70, diciamo che sono un po' gli eredi di un cinema indipendente che era quello appunto dei primi studenti di cinema americani, che sono la generazione di Lucas e di Spielberg, diciamo che reagisce con una specie di distanza di più o meno 20 anni proprio a un riflusso che era stato quello del cinema degli anni 80 americano. Negli anni 90, inizio 2000, ci sono le generazioni dei nuovi studenti di cinema che hanno un gusto chiaramente formato su film precedenti. Wes Anderson, rispetto ad altri, diciamo, ci mette una specie di lirismo romantico che assorbe tutte le teorie del postmoderno, cioè si vede che è uno che ha studiato, si vede che è uno studente sia di cinema ma anche di proprio di mass-mediologia come tipo di cosa. Io se difficile trovare delle, diciamo, delle convergenze, perché Anderson ha un cinema, questo Anderson ha un cinema molto personale, quindi visivamente non, che non somiglia a nient'altro. Forse dal punto di vista di un romanticismo di fondo verso i suoi personaggi e di un riutilizzo di certi stilemi, dicono quelli bravi, visivi, forse l'autore che più sento affine è certe cose di Sofia Coppola, se vogliamo dire la mia. Però è un regista che, sebbene sempre postmoderno fino al midollo, è uno che ha assimilato tantissimo certi modi di racconto e certa costruzione dei personaggi, che sono quasi tutti dei loser, sono quasi tutti, anche se trattati in maniera quasi sempre con toni virati alla commedia più che drammatico, che vengono da uno studio molto profondo sia del cinema americano, della New Hollywood, che è in ogni caso un modello di ispirazione per tutti i cineasti indipendenti americani recenti, sia, e questo l'ha soprattutto strutturato nel suo ultimo film, anche andando a guardare a un certo cinema di commedia classica rivisitato chiaramente in una chiave molto molto stilizzata. Ci sono delle cose belle, ma si vede anche dalle pubblicità, ecco, c'è un utilizzo dell'immagine che sembra sempre evocare qualcos'altro, sembra sempre essere identificabile, sembra sempre vestita, sembra sempre scenografata. C'è un modo di pensare proprio per immagini che è una cosa che a me colpisce molto di lui, ecco, insomma, nel senso che l'immagine e la musica e tutte quelle che sono le costruzioni registiche nei suoi film tendono a costruire la storia almeno quanto la sceneggiatura. E questo lo trovo, diciamo, una caratteristica degli autori veri, ecco. Oh, un altro elemento fondamentale sono i cast stellari. Sembra che gli attori facciano un po' la fila quando si tratta di fare un film con Wes Anderson. Beh sì, insomma, gli attori, cioè, diciamo che appunto lui ha un attore che praticamente gli percorre i parti più o meno piccoli tutta la cinematografia, che è Bill Murray, che lui ha utilizzato come maschera, ma ricordiamoci che Bill Murray, a parte il grande successo degli anni di Ghostbusters e poi di Ricomincio da capo, era un attore quasi dimenticato. Poi Wes Anderson lo ha messo in Rushmore, il ruolo da protagonista, nei Tenenbaum in un ruolo quasi secondario, da assoluto protagonista nelle avventure acquatiche di Sisu, e comunque riappare sia in Moonrise Kingdom che anche in Grand Budapest Hotel. Ha proprio un utilizzo degli attori che mischiano degli attori molto popolari, Ben Stiller, appunto Gwyneth Paltrow in questo caso, che sono riconducibili a un cinema più di consumo, a autori, appunto attori tipici di certo cinema invece indipendente del passato, qua c'è Angelica Houston, c'è Gene Hackman, appunto all'utilizzo di personaggi usati come maschere come può essere Ben Stiller. Nell'ultimo Grand Budapest c'è un elenco di attori che praticamente dura 10 minuti il film di rullo finale. Chiaramente è quel tipo di cinema che ha proprio nella stilizzazione dei caratteri e dei personaggi può essere affascinante per degli attori che vogliono fare qualcosa di diverso. Chiaramente Bill Murray non a caso è quello che assomiglia anche come carattere di più al tipo di cinema che fa Wes Anderson, appunto un po' lunatico, un po' sognante, un po' apparentemente monocorde, ma sotto la cui appunto singola espressione viaggiano mille emozioni. Anche per quello, appunto, insomma, ho fatto l'accostamento con la Coppola, perché poi Bill Murray forse è quello che, sebbene con la Coppola abbia fatto soltanto Lost in Translation, è quello che l'attore, che la faccia che uno forse ricorda maggiormente anche di quel cinema. È un utilizzo anche lì degli attori che sono degli attori che è vero che fanno anche la fila, ma che sono degli attori che si reinventano lavorando con lui. La Paltrow non solo non è mai stata come personaggio forse piacevole come dei Tenenbaum, ma non è neanche mai stata così bella. Anderson ama molto gli attori, li inquadra in un certo modo, gli dedica moltissimi primi piani. le inquadrature sono sempre frontali, quindi gli permette di giocare con il movimento degli attori piuttosto che con i movimenti della macchina. Penso che sia un regista che, nonostante abbia uno stile riconoscibile proprio per il modo di inquadrare, il modo di riempire l'inquadratura, sia un regista che sia molto dedito agli attori, e quindi questo nel momento in cui il cineasta indipendente, anche molto cool, diciamolo, sotto certi aspetti, fa un certo tipo di film, poi gli attori alla fine ci vanno anche volentieri, insomma, gli attori mica sono scemi, alla fin fine. Senti Federico, buongiorno, ciao. Ciao. Senti, io ti volevo chiedere una cosa. Ho notato che in quasi tutti i film di Anderson c'è un filo conduttore che è quello della famiglia, dei fratelli, insomma, sia nei Tenenbaum che anche in Treno per Darjeeling, insomma, sono sempre tre fratelli che fanno un viaggio, e anche in Rushmore, insomma, è un'intuizione, insomma, una sensazione che ho io, o è proprio così, insomma, che lui abbia una sensibilità particolare nei confronti di questo tema, per esempio, no? No, non è una sensazione, vedete, lui parla soltanto di famiglia, insomma, cioè, nel senso che è un tema, direi che è un tema esclusivo, nel senso che paradossalmente in un film in cui sono tutti personaggi sradicati dalle loro famiglie, come in Gran Budapest, dove la famiglia non c'è al centro, sì, addirittura costruisce la lobby dei lobby man, cioè dei portieri d'albergo. Il fatto dell'appartenenza a un gruppo, la riconoscibilità, anche il disagio assoluto all'interno delle famiglie, perché poi in realtà sono tutte famiglie scoppiate o non convenzionali o disagiate, ma pensiamo a Murray's Kingdom, ma pensiamo anche al suo unico film d'animazione che è Fantastic Mr. Fox, è un film di formazione su un figlio che non si riconosce nelle aspettative dei padri. Rushmore è un film in cui Bill Murray fa un padre che ha un figlio che che non lo rappresenta e che si appassiona di un figlio di altri che non è rappresentato dai suoi genitori. L'assoluta inadeguatezza sia dei personaggi che delle strutture familiari che ci stanno dietro è assolutamente al centro di tutti i suoi film, fino ad arrivare forse al film in cui questa cosa è ancora più clamorosa che in Darjeeling, in cui la cosa è chiara, è il tentativo quasi impossibile di ricongiungimento padre-figlio che spera nelle avventure acquatiche di su. Wes Anderson è un regista che parla sempre di famiglia senza essere familista, che è una cosa un po' miracolosa nel cinema contemporaneo, che invece tende sempre una ricomposizione delle fratture familiari. No, ma chissà se la ricomposizione c'è sempre emotiva, ma non, pur in famiglie quasi sempre esplose, che è la cosa che lo rende secondo me molto interessante. Sì, ma chissà se c'è, cioè, questo elemento, insomma, proviene da qualcosa di autobiografico, non so. Questo non lo so, insomma, è sempre curioso. Che il discorso è che facendo delle famiglie così particolari e così non somiglianti a nessun'altra, probabilmente però raccontano a tutti, riesce a essere universale raccontando a ciascuno di noi qualche pezzetto delle proprie esperienze. È vero, la cosa è vero che mi ha sempre fatto impressione delle famiglie di Wes Anderson, che non sono delle famiglie assolutamente mai canoniche, quindi che non è che possono assomigliare a nient'altro se non a una proiezione della fantasia dell'autore e della propria, magari, ma cosa che non sappiamo, però riescono comunque in ogni caso ad essere credibili e a raffigurare in maniera completamente con tendenze surreali, con tendenze appunto assolutamente non da cinema realista, però a delle emozioni che probabilmente ciascuno di noi prova all'interno dei non sempre facili rapporti familiari. C'è modo e modo di parlare di famiglia, cioè nel senso che io trovo sempre nella commedia italiana, ad esempio, un essere familista senza riuscire mai a cogliere il centro di qualcosa di realmente problematico in senso adulto. In Anderson, che si gioca anche su delle questioni molto puerili, anche come immaginario, quasi infantili, volutamente infantili, giocose, eccetera, eccetera, si colgono dei nodi drammatici che riescono ad essere universali pur raccontando delle storie, diciamo, difficilmente credibili se non attraverso la sospensione dell'incredulità tipica del cinema. È una cosa che mi ha sempre molto commosso, insomma, cioè nel senso che io, è una delle ragioni per cui amo molto Wes Anderson, che fa dei film, un cinema molto stilizzato, molto cinematografico, senza mai dimenticarsi del nucleo emotivo che ci sta sotto. Grazie, hai soddisfatto pienamente la mia curiosità. Meno male, grazie. Ciao Fede, senti, un abbraccio e a risentirci magari per la prossima. Anzi, ti dico in diretta, se ti viene subito un altro titolo, noi ce lo annotiamo. quasi famosi di Cameron Crowe. Beh, io ci avevo già pensato, infatti, con che mi lasciate? Arrivi tardi. Ok. Senti, con che lo salutiamo, David? Needle in the Hay di Elliot Smith. Bella, bellissima. Elliot pezzo. Smith, benissimo. Ma posso suggerire una cosa agli ascoltatori? Prima che inizia il pezzo, di andarvi a leggere il testo, perché è veramente molto molto bello e profondo. Ciao Fede, un abbraccio. Ciao a voi, grazie. Questa era Needle in the Hay di Elliot Smith, e questa canzone appare quando c'è il tentativo di suicidio da parte di Rich, e pare che Smith fu colpito e dispiaciuto dell'associazione del suo pezzo a questa scena, però è molto triste, no? Questa canzone parla di una delusione d'amore, quindi secondo me anzi molto adatta. Sì, sì, sì, sì, parla di un amore finito e del modo in cui Smith pensa, insomma, di porre fine al dolore, insomma, poi traete voi le conclusioni. Chi è Elliot Smith? È statunitense, è lo pseudonimo di Stephen Paul Smith, è nato nel 69 e morto nel 2003 in una circostanze misteriose. È nato come musicista rock, però le sue sonorità sono anche molto acustiche, come questo brano che abbiamo sentito. E il fatto che sia morto così giovane, a 34 anni, e la sua musica l'hanno fatto diventare uno dei miti rock degli ultimi anni. Nel 98 è l'anno in cui acquisisce la grande notorietà internazionale, perché viene nominato all'Oscar come autore della canzone Miss Misery, tratta dal film Will Hunting. Non vince, però vince Celine Dion. Uno non può essere stronzo per tutta la vita e poi riparare al danno. Insomma, io penso che sia questo che uno vuole sentirsi dire. Tu credi? Ma se non sai nemmeno qual è il mio secondo nome? È una domanda trabocchetto, tu non ce l'hai un secondo nome. Helen. E questa era Fly di Nick Drake. Questa, l'epilogo di questa puntata di oggi, ragazzi, è veramente romantico, perché anche questo pezzo, se vi andate a guardare su internet il testo, se non l'avete insomma preso adesso mentre veniva, me lo passavamo, insomma è molto bello, è molto profondo, molto molto triste. E non voglio intristirvi ulteriormente, con la vita di Nick Drake, che è tristissima, ma non, questa volta non ve la racconto. Però voglio dirvi la particolarità di questo cantautore, che è considerato per i chitarristi, tra i chitarristi acustici, un inarrivabile mostro sacro, perché è stato uno dei primissimi a sperimentare accordature alternative. Praticamente accordava la chitarra in maniera differente per ogni pezzo. Le accordature erano tutte inventate e non aderenti alle tipiche ed usate accordature aperte. Infatti lui accordava la chitarra a piacere, a seconda delle esigenze del pezzo che suonava, senza seguire nessun canone preciso. Era capace di estrapolare sonorità mai raggiunte per l'epoca dalla sua chitarra, proprio perché non seguiva una sequenza ripetuta nei suoi arpeggi, bensì usava la chitarra quasi come un pianoforte, coniugando accompagnamento e melodia. Insomma, un genio. E questa era la sonata in fa minore per violoncello e pianoforte del mutato orchestra, musica orchestra, con Mark Mothersbaugh, e nella sua musica si sente sempre la sua passione per la musica classica, ma anche una sorta di follia matematica. E io invece vi volevo ricordare che Radio Onda Rossa è una radio libera, senza padroni, senza pubblicità, e che non vive di aria, quindi è necessario e opportuno che voi sottoscriviate al conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. Ricordiamo anche, anzi diciamolo per la prima volta, che Attica Blues quest'oggi non andrà in onda, per cui noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16 con Tracce di Cinema. Abbiamo anche la posta elettronica traccedicinema@ondarossa.info. Scrivete, mi raccomando, dateci dei suggerimenti, bene accetti sempre. Ciao a tutti. She wants to know why she's given half her life.